Quando Dio non mantiene le promesse? Queste riflessioni hanno per me un valore particolare. Quando l'11 marzo 1984 le presentai per la prima volta alla chiesa alla quale appartengo, al termine dell'incontro mio figlio, allora quasi tredicenne, mi venne incontro tutto raggiante e mi disse: «Papà, per la prima volta ho capito quello che hai detto». Ancora una volta si era dimostrato vero ciò che Gesù disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli». Matteo 11:25. Accostiamoci quindi come dei bambini all'ascolto della Scrittura, che non può essere annullata. La parola di Dio è principalmente un libro di promesse, una più bella dell'altra. Dopo che Adamo ed Eva ebbero peccato seduti da Satana, l'Eterno profetizzò al serpente che sarebbe nato colui che lo avrebbe vinto una volta per sempre, Gesù Cristo. Poiché Dio aveva fatto innumerevoli promesse, il pio israelita nelle sue preghiere si rifaceva spesso a ciò cui egli si era impegnato, e su quelle basava la sua vita. Il Salmo 89 costituisce un esempio di come il credente dell'Antico Testamento pregasse fiducioso della fedeltà di Dio. Cantico di Eton, l'Ezraita. Io canterò per sempre le benignità di Yahweh, con la mia bocca proclamerò la tua fedeltà a tutte le generazioni. Poiché ho detto la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilirai la tua fedeltà nei cieli stessi. Io ho fatto un patto col mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, dicendo: stabilirò la tua progenie in eterno, ed edificherò il tuo trono per ogni età. Sela, e i cieli celebreranno le tue meraviglie, o Iave, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Poiché chi può in cielo essere paragonato all'Eterno? E chi è simile all'Eterno fra i figli del potente? Dio è grandemente temuto nell'assemblea dei santi e profondamente rispettato da tutti quelli che lo circondano. O Eterno, Dio degli eserciti, chi è potente come te, o Eterno? La tua fedeltà ti circonda dappertutto. Tu domini la furia del mare, quando le sue onde si innalzano, tu le acqueti. Tu hai ridotto in frantumi l'Egitto, ferendolo a morte, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. I cieli sono tuoi, anche la terra è tua, tu hai fondato il mondo e tutto ciò che è in esso. Tu hai creato il settentrione e il mezzogiorno, il Tabor e l'Ermon mandano grida di gioia al tuo nome. Tu hai un braccio forte, la tua mano è potente, la tua destra è esaltata. Giustizia e diritto formano la base del tuo trono. Benignità e verità vanno davanti al tuo volto. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, o Eterno, perché esso camminerà alla luce del tuo volto, si rallegrerà tutto il giorno nel tuo nome ed esulterà nella tua giustizia. Sì, tu sei il vanto della loro forza, e col tuo favore accresci la nostra potenza. Poiché il nostro scudo appartiene all'Eterno e il nostro Re al Santo di Israele. Tu parlasti allora in visione al tuo diletto e dicesti: ho dato aiuto a uno che è potente, ho esaltato un eletto tra il popolo. Ho trovato Davide, mio servo, e l'ho unto col mio santo olio. La mia mano lo sosterrà fermamente e il mio braccio lo fortificherà. Il nemico non lo opprimerà e il perverso non lo affliggerà. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia benignità saranno con lui, e nel mio nome riceverà potenza. Stenderò la sua mano sul mare e la sua destra sui fiumi. Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Lo costituirò pure mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Gli userò benignità per sempre, e il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò pure la sua progenie eterna e il suo trono come i giorni dei cieli. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano nei miei ordinamenti, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione con la verga e la loro iniquità con battiture. Ma non ritirerò la mia benignità da lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Ho giurato una volta per la mia esse al Nuovo Testamento e non mentirò a Davide. La sua progenie durerà in eterno, e il suo trono sarà come il sole. Davanti a me. Sarà stabile per sempre come la luna, e il testimone nel cielo è fedele. Sela. Ma tu? Ci hai abbandonato e respinto, ti sei grandemente adirato contro il tuo unto. Tu hai disprezzato il patto fatto col tuo servo, e hai profanato la sua corona, facendola cadere a terra. Hai abbattuto tutte le sue difese, e hai ridotto in rovine le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno saccheggiato, ed è divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai esaltato la destra dei suoi avversari, e hai fatto giubilare tutti i suoi nemici. Hai fatto piegare il taglio della sua spada, e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore, e hai gettato a terra il suo trono. Hai accorciato i giorni della sua giovinezza, e l'hai coperto di vergogna. Sela, fino a quando, o Eterno, ti nasconderai tu per sempre? Arderà la tua ira come un fuoco. Ricordati quanto breve sia la mia vita, per quale vanità hai creato tutti i figli degli uomini. Qual è l'uomo che viva, senza vedere la morte, e che possa sottrarre la sua vita al potere dello Sheol? Sela, dove sono, o Signore, le tue benignità antiche, che giurasti a Davide nella tua fedeltà? Ricordati, o Signore, dell'oltraggio fatto ai tuoi servi, e come io porto in cuore l'oltraggio di tutte le nazioni, col quale i tuoi nemici ti hanno oltraggiato, o Eterno, col quale hanno oltraggiato i passi del tuo unto. Benedetto sia Yahweh per sempre. Amen, sì. Amen. Etan, l'Ezraita, inizia la sua preghiera con l'intenzione di esaltare la bontà di Yahweh e la sua fedeltà. Due caratteristiche queste che rendono la creatura fiduciosa sull'esito della preghiera. Ricorda che Yahweh è stato fedele con il suo popolo Israele, che egli è arbitro degli eventi della vita, che ha giurato a Davide di rendere il suo trono stabile in eterno, che il nemico non lo avrebbe oppresso. Ed ecco che nel corso della preghiera si evidenzia il motivo della sua invocazione: Dio, tu hai stabilito un patto con Davide e non lo hai mantenuto. Versetto 39. Sì, nella preghiera Etan esprime più o meno velato un terribile dubbio. Il Dio fedele non ha mantenuto una promessa, possibile? L'atteggiamento del salmista mette a nudo anche il mio animo. Non mi sento di giudicare Etan, perché in fondo anch'io ho una radice di sospetto che Dio non sia sempre fedele. So che questo atteggiamento non è quello di un credente che si rispetti, ma è inutile fingere di essere super spirituali, di possedere una fede inossidabile, di essere i primi della classe. Noi viviamo in un'epoca nella quale tutto è superiore al normale, il super bianco, il supermanan, la benzina super, la superstar, il supercarcere, i superpentiti. Sì, tutto è super. Anche il credente si trova a disagio in un mondo di super. Così recita, fa il super credente, desidera mostrarsi sempre sulla cresta dell'onda, senza dubbi e pieno di certezze. Sì, grazie a Dio le certezze ci sono, ma anche i dubbi. Quando ci guardiamo attorno e vediamo ingiustizia, dolore, ci assalgono i dubbi sulla fedeltà di Dio. Anche noi siamo degli Etan. E allora sorge spontanea una domanda che non vorremmo formulare. Perché Dio non mantiene le sue promesse? Poiché ritengo la domanda lecita, mi propongo di dare una risposta alla luce di quello che ho compreso della parola di Dio facendo 8 considerazioni. 1. Dio non mantiene le promesse quando non abbiamo ben compreso ciò che ha detto. Prima di affermare che qualcuno è bugiardo o non mantiene le promesse, è saggio accertarsi di aver compreso bene le sue parole. Lo stesso vale per Dio. Quando leggiamo la sua parola, dobbiamo verificare se quello che abbiamo compreso è esattamente ciò che lui ha detto. Facciamo alcuni esempi. A. La promessa a Giacobbe. Israele dunque partì con tutto quello che aveva, e, giunto a Beersheba, offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. E Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe. Egli rispose: Eccomi. Dio allora disse, «Io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e ti farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi». Genesi 46, 1 a 4. Dio ordinò a Giacobbe di scendere in Egitto perché sicuramente lo avrebbe anche riportato in Canaan. Non solo. Ma dalla sequenza delle promesse comprendiamo che Giuseppe sarebbe stato al suo capezzale al momento della morte, dopo essere tornato in Canaan. Credo che chiunque, nell'ascoltare la promessa di Dio al posto di Giacobbe, si sarebbe aspettato di tornare vivo in Canaan. Ma il seguito del racconto, Genesi 49, 29, 33, sembra contraddire tale promessa. Giacobbe muore in Egitto, Giuseppe è sì presente al momento della sua morte, ma il patriarca ritorna in Canaan, imbalsamato. E, venuto meno Dio alla promessa? No. La promessa di Dio va compresa. Dio aveva promesso a Giacobbe che la sua progenie sarebbe ritornata in Canaan ed egli non ne era che il rappresentante. Credo che alcune promesse di Dio vadano lette in quest'ottica. Ce ne sono alcune che sono certamente personali, ma dal momento che la scrittura è diretta ai credenti di ogni epoca e cultura, è ovvio che Dio guarda i suoi figli nel loro insieme. Gesù ha promesso che avrebbe edificato la sua chiesa e che le potenze del male non l'avrebbero vinta. Può succedere che una chiesa locale sia dispersa, distrutta e la sua testimonianza spenta, ma non per questo quei credenti debbono dubitare di ciò che Gesù ha promesso. Anche se la chiesa locale scompare, rimane il fatto che la chiesa universale è ancora presente, militante e potente nella testimonianza. Tale esperienza non annulla le promesse di Dio. Ho letto alcune testimonianze di credenti che, essendosi appropriati illegalmente di certe promesse generali di Dio, si sono trovati in situazioni molto gravi e alcuni di loro hanno perso la vita. È vero che è grave per un credente non credere alle promesse di Dio, ma è altresì pericoloso sfidare le circostanze quando non vi è da parte di Dio una evidente chiamata. Prima di osare nelle vie di Dio, accertati della chiamata. Prima di dubitare delle promesse di Dio, verifica di averla compresa bene. 2. Dio non mantiene le promesse quando ci è una condizione. Le promesse di Dio non sono come il sole che ti scalda anche se non vuoi, dove niente è nascosto al suo calore. Salmo 19, 6. Troppi credenti incolpano Dio di non rispondere o pensano di onorare Dio citando versetti per giustificare il loro errato comportamento e non si rendono conto che le promesse di Dio sottostano a delle condizioni. Consideriamone alcune. A. Per trovare la conoscenza di Dio. Proverbi 2, 1 a 5. Figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento, sì, se chiedi con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento, se lo cerchi come l'argento e ti dai a scavarlo come un tesoro nascosto, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Quante persone desiderano conoscere Dio? Alcuni incolpano il loro Creatore di non aver dato loro la fede che invidiano ad altri. Ma, come abbiamo letto, non si ha intelligenza nelle cose di Dio di punto in bianco, occorre tutta una serie di azioni: ricevere, prestare, inclinare, chiedere, invocare, cercare, scavare. Nessuna cosa preziosa cade dal cielo, l'oro non si trova per caso, così è nel campo spirituale. B. Per avere intelligenza. Proverbi 2, 1 a 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data appunto, ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Tutti noi desideriamo essere all'altezza della situazione, sapere come comportarci, come parlare. Perciò chiediamo a Dio sapienza, perché Lui ce la Ma, come leggiamo, il presupposto per ottenere la sapienza è di non dubitare. C. Per avere Gesù come amico. Giovanni 15 e 14. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Vi è un inno famoso in tutto il mondo che ha questo titolo: Quale amico in Cristo abbiamo? Ma è veramente Gesù il tuo amico? Hai mai pensato che perché si avveri la promessa di Gesù devi osservare ciò che lui ha detto? D. Per essere esauditi nella preghiera. Giovanni 15, 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Preghi e non sei esaudito. E, forse è venuto meno Dio alle sue promesse, hai mai pensato che Dio esaudisce colui che vive nella sua volontà e si nutre della sua parola? Non ti ricordi ciò che Giacomo ha detto? Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 4, 3. Una preghiera esaudita è volta sempre a onorare Dio. E, per avere comunione fraterna, 1 Giovanni 1, 7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Il tuo rapporto con la Chiesa è difficile? Non vedi un progresso spirituale? Perché Dio non risponde alle tue preghiere sincere e accorate? La risposta è semplice. Devi camminare con amore in verità. Questa è la luce di cui parla Giovanni. Si potrebbero citare molte altre promesse di Dio che sono sottoposte a delle condizioni, ma queste sono sufficienti per dimostrarti che a volte Dio non risponde perché non vi sono i presupposti necessari. 3. Dio non mantiene le promesse perché non sappiamo aspettarlo. 1 Samuele 16. 1. La fretta di vedere risolversi le situazioni è una grande calamità. Quando eravamo bambini, aspettavamo impazientemente un regalo promesso. Così ora vorremmo che tutte le promesse si avverassero subito. Ma le promesse di Dio si avverano sempre al momento opportuno. Prendiamo l'esempio di Davide, il figlio di Isai. Yahweh disse a Samuele: «Fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di olio e va. Ti mando da Isai il Betlemita perché mi sono scelto un re tra i suoi figli». Samuele aveva da poco eletto Saul re di Israele. Quando Yahweh lo rigettò, decise di scegliersi un altro re. Mandò Samuele a Betlemme, e là unse re un giovanetto di nome Davide. Da quel momento in poi Davide aveva l'autorità e il diritto di svolgere la funzione di re, ma le circostanze guidate da Dio non permisero a Davide di diventare re a tutti gli effetti, se non dopo molti anni. Spesso la nostra vita assomiglia a quella di Davide. Dio ha promesso di avere cura di noi, 1 Pietro 5, 7, e a volte vediamo la sua mano intervenire quando proprio non ce l'aspettiamo. Preghiamo per la guarigione, ed ecco che questa avviene dopo un lasso di tempo talmente lungo per noi che non ci rendiamo conto dell'esaudimento della preghiera. Sicuramente Dio ha esaudito tante nostre richieste, e noi non ce ne siamo resi conto per il tempo trascorso dalla nostra preghiera. 4. Dio non mantiene le promesse quando ha qualcosa di meglio per noi. Ebrei 11, 32, 40. Quando ero giovane e non conoscevo Gesù Cristo, chiedevo ardentemente a Dio di avere anch'io una ragazza. Mentre tutti i miei amici potevano trascorrere il sabato e la domenica con la fidanzata, io mi chiedevo perché Dio non mi avesse soddisfatto in questo lecito desiderio. Una volta diventato figlio di Dio, capì che Egli aveva qualcosa di meglio per me. Una ragazza credente. Sì, Dio non dà solo buoni doni a quelli che glieli chiedono, ma dona ogni cosa in abbondanza. Leggiamo in Ebrei 11 e 32 40. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati Perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore? Altri furono messi alla prova con schermi, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati loro. Il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. L'autore della lettera agli Ebrei molto onestamente e obiettivamente riconosce che non tutti coloro che hanno servito Dio hanno avuto un'adeguata ricompensa sulla terra. Ma egli non incolpa Dio di essere venuto meno alle sue promesse, riconosce che Dio non li ha protetti dalle sofferenze perché voleva dare loro molto di più. Non è forse così anche per noi? Gesù non chiama beati coloro che soffrono a causa sua perché il loro premio è grande nel cielo? Matteo 5,12. Credi tu a questa promessa? Se ci credi sei felice. Diversamente fai Dio bugiardo. Se ci credi non odierai i tuoi nemici, anziché essere rammaricato per i maltrattamenti, invece di essere scoraggiato canterai ogni giorno, perché Dio ha in serbo per te qualcosa di meglio. È vero che Dio riserva a certi suoi figli una vita tranquilla e serena, ma è altresì vero che se Dio ti chiede molto, molto più ti sarà dato. Esamina la vita travagliata di Davide e quella pacifica di Salomone. Forse vorresti vivere con il benessere di Salomone, ma ricordati che Gesù è chiamato figlio di Davide, Matteo 1:1, e siederà sul trono di Davide, Luca 1:32, e non di Salomone. 5. Dio non mantiene le promesse quando vuole correggere errori e convinzioni errate, Giobbe 35:9-13. È molto difficile essere convinti di sbagliare. Siamo convinti di essere degli uomini che possono sbagliare, ma non siamo convinti che stiamo sbagliando. Questo Dio lo sa. Proprio perché ci conosce a fondo, Dio a volte non ci risponde perché vuole farci comprendere che siamo incorsi in errori di valutazione e di opinione. Il libro di Giobbe ce ne offre un esempio. Giobbe 35:9-14. Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: Dov è Dio il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più saggi degli uccelli del cielo? Là gridano, ma egli non risponde, a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani, l'Onnipotente non ne fa caso. E tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. È molto naturale per noi uomini rivolgerci a Dio quando le cose vanno male. Ma tante volte il cielo sembra di rame. Si bussa, si grida, ma al di là della porta il silenzio è assordante. Subito incolpiamo Dio di essere sordo, di venire meno alla promessa: a chi bussa sarà aperto. Eppure la scrittura è chiara. Perché lamentarci del silenzio di Dio quando non lo abbiamo ringraziato per i benefici ricevuti? Con quale diritto possiamo lamentarci di Lui se non abbiamo saputo essergli riconoscenti? Dio non ci risponde quando abbiamo opinioni errate nei Suoi confronti, quando vogliamo usarlo come un attrezzo, e non considerarlo come una persona da amare, quando il nostro cuore è superbo e non si trova nell'attitudine di ricevere insegnamento e riprensione. Considera l'opinione che hai di Dio. Vaglia i tuoi pensieri con la scrittura per trovare eventuali errori di valutazioni. Ho pregato per anni chiedendo una cosa quando un giorno mi sono reso conto che la mia preghiera non aveva senso. Stavo chiedendo qualcosa di sbagliato. Come poteva Dio rispondermi? 6. Dio non mantiene le promesse quando le richieste sono insensate. Luca 9:32-33. Chiedete e vi sarà dato, disse Gesù. Noi chiediamo e non riceviamo. È venuto meno Dio alle sue promesse? Chiedere è facile, chiedere con saggezza è più difficile. Spesso si chiede ciò che si ritiene necessario anziché ciò che è utile e buono, così Dio a volte non può risponderci. Ma è possibile pronunciare delle preghiere insensate? Niente di più facile, specialmente quando siamo coinvolti sentimentalmente. Or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma, quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Ma egli non sapeva quello che diceva. Pietro si trovava in un momento favorevole della sua vita. Era lontano dalle folle che non gli permettevano di riposare e si trovava su di un monte con Gesù, con Mosè ed Elia. Poteva desiderare di più. Chiese che quel momento non finisse mai, ma non sapeva quello che stava chiedendo. Quante volte chiediamo a Dio cose che a noi sembrano il non plus ultra, un lavoro, un'abitazione, un affare, un legame sentimentale, un legame spirituale, o anche la morte come Elia e Giona. Ma siano rese grazie a Dio che le nostre richieste sconsiderate siano valutate saggiamente da chi sa dare buoni doni. Sembra strano, ma le richieste insensate si fanno proprio nei momenti in cui occorre maggior saggezza, e questo perché si è in preda a forti emozioni. 7. Dio non mantiene le promesse quando queste sono parziali. 2 Re 22, 18, 20 e 23, 29, 30. Giosia è stato uno dei re più fedeli al Signore. Per questa sua fedeltà, l'Eterno gli fece questa promessa. Poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Yahweh quando hai udito ciò che ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che sarebbero divenuti una desolazione e una maledizione, e ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. Perciò, ecco, io ti riunirò ai tuoi padri e sarai deposto in pace nel tuo sepolcro. E i tuoi occhi non vedranno tutto il male che io farò venire su questo luogo. La promessa di Yahweh non era da poco. Morire in pace, in serenità. Giosia certamente sarà stato fiero di questa promessa, e il racconto dei fatti della sua vita dimostra che Giosia amava veramente Dio. Ma qualcosa successe. Il faraone ne andò a combattere contro il re di Assiria, e Giosia si intromise in una faccenda che non lo riguardava, sfidando Neco. Nonostante che il faraone cercasse di persuaderlo a restare tranquillo, Giosia ostinatamente mosse contro il faraone e morì in battaglia. Giosia morì così in tempo di pace, ma per mancanza di discernimento morì in una battaglia che non lo riguardava. Le promesse di Dio possono essere rese parziali dalla nostra stoltezza. 8. Dio non mantiene le promesse quando i motivi di preghiera sono malvagi. È difficile per noi credere che Dio non risponda alle preghiere, perché queste non sono motivate da buoni propositi. Siamo disposti a credere di non comprendere la risposta di Dio, accettiamo che vi siano delle condizioni da onorare prima di essere esauditi. Siamo disposti anche ad aspettare la risposta di Dio perché egli ha qualcosa di meglio. Ammettiamo che Dio voglia correggere alcune nostre opinioni sbagliate, di avere compreso in parte il suo volere, che le nostre richieste siano insensate, ma che possiamo avere delle motivazioni malvagie quando rivolgiamo delle preghiere a Dio. Questo proprio no! In perfetti sì, ma non malvagi fino a questo punto. Così la nostra vita di preghiera diventa un fallimento. Pietro desiderava ardentemente che il suo maestro non soffrisse, diventando così un nemico di Cristo. Matteo 16 e 22. Quando desideriamo a tutti i costi la salute fisica dei nostri cari, diventiamo nemici del Dio che flagella coloro che ama. Ebrei 12 e 6. Quando vogliamo vedere le benedizioni di Dio, andiamo contro il principio che la vita cristiana è una vita di fede. 2 Corinzi 5, 7. È molto facile pregare con motivazioni sbagliate nella preghiera per cui Dio non può mantenere le sue promesse. Queste riflessioni mettono in evidenza la necessità di mettersi in discussione. L'errore di tanti credenti è quello di essere troppo convinti che le loro convinzioni siano giuste, precludendosi in tal modo una crescita nella vita psichica e spirituale. Se i conti non tornano tra quello che abbiamo compreso e quello che vediamo, dobbiamo tenere presente gli aspetti che abbiamo esaminato. La preghiera di Etan l'Ezraita racchiude tutti questi aspetti. Dio aveva giurato a Davide che egli avrebbe regnato e che il suo regno non avrebbe mai avuto fine. Ma il regno di Giuda terminò circa 6 secoli prima di Cristo, e da allora il popolo di Israele è stato sempre soggetto alle altre nazioni. Come possiamo spiegare questa mancata promessa? Gli apostoli possono darci una risposta. Ecco, come Paolo ha interpretato una delle promesse più grandi fatte ad un uomo, Abramo. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte. Ma, come parlando di una sola, dice «e alla tua progenie, che è Cristo», Galati 3,16. Abramo e tutti i suoi discendenti, fino alla venuta di Gesù, non avevano capito la promessa di Dio, perché pensavano che essa fosse rivolta unicamente al popolo di Israele. Per lo Spirito Santo Paolo fa notare che Dio si era rivolto alla progenie di Cristo, cioè a tutti coloro che avrebbero creduto in Lui. Così, ancora una volta, una promessa di Dio ha un'applicazione universale. Chi è dunque la progenie di Davide, il cui trono non avrà fine? Esso è Gesù Cristo, il quale verrà a regnare sulla terra per sempre. Non solo. Anche i cristiani fanno parte della progenie di Davide, essi sono i veri giudei, Romani 2,29, che sono stati liberati dal potere delle tenebre e sono stati trasportati nel regno di Cristo, Colossesi 1,13, che dura in eterno. Il cristiano vive già ora nel regno di Cristo, il quale, secondo le promesse, sarà visibile sulla terra. Il dubbio di Etan l'Ezraita era lecito e spirituale perché aveva preso alla lettera la promessa di Dio. Ma se fosse in vita ora adorerebbe ogni giorno Dio, perché Dio è fedele e la sua fedeltà dura per sempre. L'esperienza del salmista deve infondere nel nostro cuore una incondizionata fede in Dio, tramite Gesù Cristo, perché se anche ora non vediamo realizzarsi tutte le sue promesse, esse si compiranno al momento opportuno. Dopo 18 anni dalla sua testimonianza di aver compreso questo messaggio, mio figlio è travagliato da forti dubbi che lo hanno allontanato dalla vita comunitaria di chiesa. Potrei interrogarmi e dire: «Dove sono, Signore, le tue promesse? Non sta forse scritto: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio e non se ne allontanerà?» Proverbi 22,6. Ma il mio cuore riposa sereno nelle promesse di Dio, perché se i conti non tornano, ciò non mi turba. Se ho commesso degli errori come padre, non me ne devo stupire né turbare, perché la mia vita è stata, è e sarà sempre e comunque nella mano di Dio. Se invece Dio ha qualcosa di meglio per me, sono in una desiderosa e piacevole attesa, perché le sue promesse sono sempre buone, preziose, stabili, fedeli, grandissime, disarmanti. Almeno per me. Marzo 2002. Ellero.